24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui alle 7:20 minuti, buongiorno cari ascoltatori, eccoci fino alle 9, il nostro Peter Bescapè, il nostro alpino in regia ci assisterà fino a quell'ora. Quanti giorni mancano, Peter? Ti ho preso in castagne, meno di un mese, 22 o 23 dice, ma Bolzano quest'anno. Allora, di cosa parleremo oggi? Avremo ospite il sindaco di Capri, Ciro Lembo, perché è uno dei sindaci di quelle isole minori dove si sta gongolando per l'arrivo di una nuova tassa. Tutti gli italiani dicono le tasse. Per attraccare nelle isole minori ci sarà una tassa, credo, da 1,50 euro, lo scopriremo. E i sindaci delle isole, alcuni sindaci dicono, oh, questo sì che è federalismo, vero? Con questa tassa che ci permetterà di rimpinguare un po' le casse comunali. Parleremo poi di partiti, la riforma dei partiti, come ha chiesto ieri Monti, dicendo non pensino i partiti che la riforma della politica, del finanziamento anche, sia un qualcosa slegato dalla ripresa, dalla crescita del nostro paese. Avremo ospiti Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, e Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani Pulite, dalle 8:30. Ora da cosa partiamo? Dai giornali in edicola. Questo giovedì 19 aprile, intanto i titoli che sono un inno al pessimismo cosmico, ma d'altronde va così. Il Sole 24 Ore, credito d'imposta per la ricerca, il piano passerà dalle infrastrutture ai crediti con la pubblica amministrazione, ed è uno dei titoli più ottimistici. Poi guardate qua, Corriere della Sera, a disagio una famiglia su due. La Repubblica, Monti, sacrifici fino al 2013. La Stampa, Monti, crescita solo nel 2013. Avvenire, in attesa di crescere. Il Giornale, ci stanno rovinando le tasse sulla casa. Il Manifesto, la casa brucia, sempre per le tasse. Il Secolo XIX, Monti, crescita solo dal 2013. Uno dice, vabbè. Il Messaggero, via al piano per la crescita, un po' di abbozzato ottimismo. Il Fatto Quotidiano, gli toccano le TV e Berlusconi minaccia Monti, mentre Libero, il governo assume calciatori, casta senza limiti. Invece l'Unità apre sulla vicenda dei due cittadini espulsi dall'Italia e imbarcati su un aereo di linea e ritratti con lo scotch in bocca. Se questo è un uomo, questo è il titolo con la foto in prima pagina. Allora, notizie dalla casta. Noi ce ne eravamo occupati. Vi ricordate che ci sono degli ex deputati che, siccome sono state cambiate le regole in corsa, cioè dovevano prendere il vitalizio a 50 anni, ma si è deciso di spostarlo dai 60 anni, hanno fatto ricorso alla Camera stessa. Oggi qualche giornale ci ritorna perché c'è stata la prima udienza, nel senso che è un vero e proprio tribunale interno della Camera presieduto dal deputato Consolo che deciderà su questi ricorsi. Il Secolo XIX, la casta difende i vitalizi, 35 ricorsi contro i tagli, giù le mani dai nostri vitalizi, trovate a pagina 6, lo intimano alla Camera 35 onorevoli ribelli, la sentenza arriverà entro 20 giorni, si pronuncerà il Consiglio di giurisdizione della Camera, presieduto appunto da Giuseppe Consolo di Future Libertà. Chi sono i ricorrenti? Beh, Roberto Rosso, lo abbiamo avuto anche il nostro ospite, ricordate. C'è anche Adriano Paroli, dimessosi a gennaio per fare il sindaco di Brescia attuale. Tra l'altro noi lo avevamo cercato, ma il suo portavoce ci aveva smentito assolutamente che l'ex onorevole Paroli facesse parte di questo elenco. E ci sono, beh, insomma, è ben 17 eletti a suo tempo con la Lega. Ma la Lega dice ora non fanno più parte del nostro partito. Ci sono anche 5 ex Forza Italia, 3 ex di AN, 5 ex dell'Ulivo, 2 ex di Rifondazione, 1 dei Verdi. Al centro delle loro lamentele è questo, lo slittamento dell'età in cui inizieranno a percepire il vitalizio. Era 50 anni, ora dovranno aspettare 60 o 65. Tra l'altro il sindaco di Brescia Paroli, attraverso il suo avvocato Italo Ferrari, racconta il Secolo XIX, ha fatto la dichiarazione, secondo me, più interessante che vi voglio proporre. Eccolo qui, doveva prendere il mio assistito, il vitalizio, dal 30 marzo scorso a 50 anni, ma a gennaio sono entrate in vigore le nuove norme e adesso deve aspettare altri 10 anni. Ed ecco qui la dichiarazione, con sacrificio notevolissimo, sottolinea il suo avvocato, che incide su un diritto acquisito e su progetti esistenziali, familiari e lavorativi. Il sacrificio notevolissimo del sindaco di Brescia, che è attualmente, se non sindaco di Brescia, immaginiamo percepisca uno stipendio insomma neanche bassissimo, come giusto che sia. La casta difende i vitalizi, 35 ricorsi contro i tagli. A proposito di conti e casta, vi segnalo un articolo di Rita Bernardini, che è un onorevole dei radicali, che fa battaglie per la trasparenza dei costi del Parlamento. Lo trovate sul Manifesto, a pagina 3. I conti della Camera sono impenetrabili. In questo periodo tutti si affannano a parlare di trasparenza, scrive l'onorevole Bernardini, ma ciò che è incredibile è il motivo per il quale nessuno si scandalizzi per la totale mancanza di trasparenza dei conti di un'istituzione importante come la Camera dei Deputati, che ha un bilancio di oltre 1 miliardo di euro all'anno. L'attività amministrativa della Camera dei Deputati, infatti, è completamente sottratta, in virtù del principio di autonomia degli organi costituzionali, agli ordinari controlli esterni cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni. E con la riforma al regolamento di amministrazione e contabilità è definitivamente sparita la contabilità analitica, in contrasto con quanto previsto dalla legge del 2009, che ha imposto uno schema contabile uniforme a tutte le pubbliche amministrazioni, a tutti i livelli di governo, e ha previsto l'obbligo di redigere una contabilità analitica come principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica e come strumento di tutela dell'unità economica della Repubblica stessa. È una vera e propria controriforma che ha visto i soli deputati radicali impegnati in prima fila contro. Insomma, dice l'onorevole Bernardini, non c'è, seppure ci sia un obbligo per tutta la pubblica amministrazione di redigere una contabilità analitica, cioè questo miliardo di soldi, questo miliardo di euro a bilancio, in quali spese vanno? No, perché uno poi andando su Libero scopre per esempio notizie come questo. Libero in prima pagina lo mette, l'articolo è del vice direttore Franco Bechis: paghiamo la polizza vita alla casta, deputati e senatori godono di una super assicurazione il cui premio è per metà a carico dei contribuenti, una spesa complessiva di 2,3 milioni di euro per la Camera, 2,9 milioni di euro per il Senato, ed è già pronto un nuovo bando da 6,3 milioni di euro. Sono assicurazioni, quelli della Camera con l'Inas Italia SPA, quelli del Senato con Fondiaria SAI. Il 50% è pagato dalle amministrazioni di Montecitorio e Palazzo Madama, l'altro 50% si fa capire su Libero, è pagato dai contribuenti. Tra l'altro ieri ancora in mente il titolo di Libero, no? Le agende pagate, le agende in pelle di contribuente. Oggi Libero torna sulla vicenda dicendo che il questore del Senato Adragna precisa che la spesa sostenuta dal Senato per realizzare le agende degli ultimi 3 anni è pari a 46.000 euro nel 2009, 47.000 nel 2010 e 41.000 nel 2011. Insomma, un tentativo di difesa, dice il questore, che annuncia anche molte di quelle agende che ordiniamo, poi le vendiamo. Cari cittadini, le vendiamo. Avete mai comprato un'agenda del Senato o un'agenda della Camera? Dove si trova? Si deve andare direttamente al Senato, alla Camera? Non lo so, in cartoleria? Non lo so, boh. Cercate di comprarle, compratemene una, vi do i soldi, poi me la fate avere e ci terrei. Era un'agenda del Senato della Repubblica Italiana. Come detto, allora, alle 7:35 minuti, i titoli dei giornali che guardano alla crescita, alla situazione della crisi economica, non sono per niente ottimistici. D'altronde, ieri il Premier Mario Monti, nel presentare il documento il DEF non è che è stato molto ottimista. Ci battiamo per evitare la Grecia. Questo per esempio è il titolo che trovate a pagina 5. Ha detto un premier: non ci sarà ripresa fino al 2013. E insomma ha detto anche questa frase ad Atene: 1725 suicidi negli ultimi 2 anni, da noi non accadrà. Tanto che, se si può fare un'amara ironia su questo, a pagina 3 della Stampa, il tradizionale Iena: ottimismo, possiamo guardare al futuro con ottimismo, abbiamo meno suicidi della Grecia. Così Iena, alias Riccardo Barenghi, sulla Stampa. E d'altronde questa è la situazione. Evitare il destino della Grecia, questo è l'obiettivo secondo il nostro premier. Anche se uno guarda il Sole 24 Ore, pagina 2, ci sono le mosse presentate dal ministro Passera, i punti, i 10 punti nell'agenda per il rilancio dell'Italia, per la crescita, un'agenda in 10 mosse che il Sole 24 Ore valuta mossa per mossa: la meritocrazia, per esempio il valore legale della laurea, le infrastrutture col piano casa, l'agenda digitale con la nascita dell'agenzia, il commercio estero, l'internazionalizzazione, la meno burocrazia sui crediti. Certo, uno legge queste cose e dice: ma sono gli stessi temi che sento girare e rigirare da anni o da decenni. Per carità, bisogna sempre dare credito e sperare che sia la volta buona. Comunque Carmine Fotina, pagina 2 del Sole 24 Ore, analizza tutti questi punti, punto per punto, sono gli elementi per il rilancio del paese secondo la ricetta di Passera. Tra l'altro vi segnalo anche un'interessante intervista che Repubblica anticipa in cartaceo, ma oggi verrà trasmessa nella Storia siamo noi alle 23:15 su Rai 2, a Ignazio Visco, vale a dire il governatore di Banca Italia. L'intervista l'ha fatta Giovanni Minoli e quindi è tutta trasportata su Repubblica. Il programma di oggi parla di Guido Carli, lo storico governatore di Banca Italia, e quindi gran parte dell'intervista è concentrata sulla figura appunto di Guido Carli. Ma poi Ignazio Visco parla anche della crescita, della ripresa. Dice Visco: confermo che ci sarà una ripresa, ma non ho mai detto che sarà una forte ripresa. Ecco qui anche subito a smussare un po' i facili entusiasmi. Credo che sarà una ripresa tanto più forte quanto più si avranno risultati certi su fronti che condizionano la crescita. Le previsioni di crescita dipende molto da come andranno i mercati internazionali e l'economia globale. E lei prevede che vada meglio? Chiede Minoli. Io credo che questo sia un anno difficile, ma prevedo che l'anno prossimo sarà un anno di uscita, soprattutto se sapremo convincere i mercati che la nostra situazione di politica economica e i nostri conti sono sostenibili. Parla anche della riforma del mercato del lavoro. Ignazio Visco ha una domanda specifica, dice: in questi ultimi anni abbiamo vissuto una fase di apertura del mercato del lavoro ai giovani, con le riforme, la flessibilità introdotte. Purtroppo lo abbiamo fatto con forme non tanto eque e non tanto efficienti. La riforma appena varata va in questa direzione, senz'altro è da completare. Bisogna trovare le risorse per un sistema più completo di ammortizzatori sociali. Ma bisogna anche tener conto che la riforma del mercato del lavoro è parte di una serie di riforme che vanno viste in senso organico. Bisogna cambiare l'economia del paese insieme al lavoro. Comunque un'intervista molto intensa di 2 pagine su Repubblica, o se volete, ripeto, questa sera su Rai 2, nell'ambito della Storia siamo noi. Allora, questo per quel che riguarda la crescita. I timori del presidente del Consiglio Monti, che ancora ieri è tornato a ribadire: il futuro, il post elezioni non mi riguarda. Nel retroscena politico di Claudio Tito, ancora una volta Monti che torna su questo tema, perché molti chiedono a Monti: ma dopo il 2013 che fa? E lui continua a dire: non mi interessa. Non interessa lui, interessa forse altri politici, o meglio tecnici, il dopo 2013, ma questo lo vedremo tra poco. Prima, sempre per della serie le notizie tragiche vengono sempre una dietro l'altra, ieri ci si è messo anche il Censis a dire che la nuova tassa sulla casa, l'IMU, che si pagherà in 2 o 3 rate. Non si sa quanto, si sa quando, ma non si sa come. In 2 o 3 rate, decidessero i contribuenti. Insomma, per ora un po' un casino, ecco, per usare un termine molto tecnico. Il Censis ha bocciato l'IMU. Ci sarà un crollo del valore delle case, che potrà arrivare fino al 50%, tanto che il giornale, e cito due titoli di giornali politicamente orientati diversamente, il giornale "Ci stanno rovinando", questo è il titolo di apertura di prima pagina, con anche un editoriale di Vittorio Feltri che scrive "Basta, fine di un mito, il mito della casa". Cosicché, scrive il Censis, sul mercato l'offerta supererà di gran lunga la domanda, perché molti saranno costretti a vendere la seconda casa per il peso delle tasse, dell'IMU, e automaticamente villini, ville, appartamenti si deprezzeranno, nessuno sa quando poi si rivaluteranno. Facciamo un esempio, poniamo 3 anni fa uno ha pagato 100 un immobile, se lo rivenderà il prossimo dicembre riceverà dall'acquirente 80 se gli andrà bene, se gli andrà male intascherà 50. Casa, adesso ci stanno rovinando, così titola il giornale, e anche il Manifesto fa l'apertura su questo. Il titolo di apertura del Manifesto è "La casa brucia, l'IMU sgonfia la bolla immobiliare, prezzi giù dal 20 al 50%, c'è la foto di una casa e l'articolo di Francesco Piccioni all'interno a pagina 5, "L'IMU farà crollare i prezzi del mattone". Questo è uno studio del Censis. Ora, in questo, permettetemi 2 digressioni dalla cronaca, 2 battute. In questo momento così difficile vi segnalo Alessandra Mussolini che dice "con Monti aumenta la prostituzione". Così, ve la giro come l'ha detta. Se c'è un boom della prostituzione giovanile e delle studentesse, credo che una buona parte delle colpe sia da attribuire ai provvedimenti economici del governo che spingono tragicamente i giovani sulla strada. Alessandra Mussolini. Ci si prostituisce di più per la crisi. La seconda digressione, se volete, è che in questo momento che cosa potrebbe servire? Cosa potrebbe dare il colpo di mano agli italiani? Una gran bella botta di fortuna? Magari uno va al jackpot a una macchinetta, mette una moneta, per carità, una, ha una gran botta di fortuna e vince il jackpot. E fa una vincita, che ne so, all'otto, al gratta e vinci, a uno dei tanti giochi, ce ne sono migliaia. È successo a molti italiani lunedì. È successo a molti italiani che davanti a una macchinetta si sono visti uscire questa scritta: "Bravo, hai fatto jackpot, hai vinto", e c'è gente che ha vinto fino a 500.000 euro. È tutta una farsa. La leggenda del jackpot che hanno sbancato la SNAI, così titola La Stampa pagina 20, oppure "Il secolo XIX, videolotteri, jackpot fantasma", o ancora "Libero, sbancano le slot, ma è colpa di un hacker e la SNAI non paga". Ebbene sì, sono andate in tilt per un errore, un hackeraggio, o il sistema centrale si è disattivato un attimo. Non è questo il problema, sta di fatto che diverse macchinette sono tutte collegate a un cervellone centrale, nelle quali gli italiani mettono i loro soldini, sono andate in tilt e hanno erogato degli annunci di vincita fasulli, gente che ha letto "ho vinto 500.000 euro, ha ritirato, è andato già dal notaio, ha depositato tutto e ora pretende quei soldi", dice gente che si è affidata già a un avvocato, "mi hanno detto che io ho vinto 500.000 euro, adesso li voglio". La realtà è che la SNAI fa sapere che ci devono essere ulteriori verifiche e le verifiche hanno già portato alla conclusione che è stato il cervellone centrale che è andato in tilt per qualche secondo e ha erogato delle vincite che non valgono. È così. C'è uno di Ostia che dice "a me non interessa niente, io ho vinto". Giorgio Reggiani, fotografo in pensione a Verona, ha centrato un jackpot da 485.000 euro. Tra le 15 e le 16 il lunedì scorso, anche lui ha vinto come a Ostia, Fermo, Macerata, Lanciano, nell'agenzia di Lucca, in provincia di Lucca, 3 volte nella stessa agenzia, il jackpot. È una cosa improbabile, qualcuno si è insospettito, infatti la SNAI dice "scusateci, abbiamo il cervellone è andato in tilt, avete vinto 500.000 euro, era uno scherzo". Tra l'altro, dal punto di vista politico, tiene ancora banco la polemica sulla questione delle frequenze TV che verranno vendute con un'asta e non più con il beauty contest. Tanto che Silvio Berlusconi, che oggi a pranzo doveva vedere il Premier Monti, ha annullato tutto. Mossa del cavaliere per evitare la trappola TV. Questo è il titolo del retroscena politico di Francesco Verderami. E anche Ugo Magri sulla Stampa racconta il retroscena. Il cavaliere si è confidato per telefono con Ferrara, che tra l'altro sarà il nostro ospite alle 8.30. Ferrara, il quale di mestiere fa il cronista, ne ha scritto in tempo reale sul Foglio, il sito web, e così, grazie all'elefantino, Monti è venuto a sapere che Berlusconi oggi non sarebbe andato a pranzo da lui. Il professore era completamente all'oscuro di questo cambio di programma. Aveva invitato Silvio, lo attendeva per le 13.30. In questi casi cortesia vuole che perlomeno venisse avvertita la padrona di casa, la signora Elsa, magari con un mazzo di fiori, un bigliettino di scuse. Così scrive Ugo Magri, e quindi Monti si è molto risentito. A Palazzo Chigi ci sono rimasti male. Ovviamente Berlusconi non è un cafone, tutt'altro, ha creduto che Gianni Letta col suo savoir-faire nel frattempo avesse già avvertito Monti. Ecco perché si è lasciato andare con l'amico Ferrara. Sta di fatto che questo è il motivo per cui è saltata questo incontro, perché le versioni sono disparate. Berlusconi dice: non volevo che apparisse strumentale questa mia visita al Premier Monti proprio nel giorno in cui il tema delle frequenze TV campeggia sui giornali. Tra l'altro Repubblica oggi intervista Pier Silvio Berlusconi, presidente di Mediaset e numero uno di Mediaset e figlio di Silvio Berlusconi. In un'intervista di Ettore Livini a pagina 7 dice Pier Silvio Berlusconi: è assurdo, Mediaset torna fuori dall'asta, resta fuori dall'asta, si torna ai tempi del governo Prodi. È messo un tetto ai 5 multiplex che rischia di mettere fuori gioco prima del via sia Mediaset che la Rai. Sembra di essere tornati ai tempi del ministro Gentiloni. Se escludi dall'asta i due maggiori player sul mercato tricolore, di che asta parli? Se il governo, visto lo stato dei conti pubblici, vuol davvero massimizzare le entrate, la decisione di fare a meno di noi e di Viale Mazzini rischia di rivelarsi un boomerang. E poi dice Berlusconi: di sicuro difenderemo fino in fondo il nostro diritto a presentare un'offerta. In teoria non abbiamo bisogno delle frequenze, potremmo andare avanti benissimo a fare il nostro mestiere con quelle che abbiamo, ma si tratta di un valore in vendita ed è fondamentale non perdere opportunità come queste in un mercato che sta cambiando pelle molto rapidamente. E alla domanda deluso dal governo tecnico, Pier Silvio Berlusconi risponde: ho sempre guardato con favore all'operato di Monti. Altrettanto onestamente devo dire che alcune cose di recente non stanno dando i risultati sperati. E come leggo su tutti i giornali, mi pare ci sia troppa attenzione ai tagli e niente a quello che riguarda lo sviluppo. Intanto, ripeto, se Monti non pensa al 2013, altri ministri sì. Così lo ha detto esplicitamente Casini, Pier Ferdinando Casini: nascerà entro il 2013 il cosiddetto partito della nazione, cioè per salvare la nazione, e ci saranno anche ministri tecnici. Ha risposto ieri a una domanda di Lilli Gruber a 8:30. Sì, perché no? Per esempio il ministro Passera? Chi lo sa? E insomma, Casini arruola i tecnici, entrano nel mio partito, titola così Libero. Sta di fatto che i partiti si devono rinnovare, devono modificarsi, devono, anche secondo Monti, rinnovarsi, soprattutto nel finanziamento ai partiti. Ne parleremo alle 8.30 e tra l'altro non è una barzelletta, ma è così. Dà l'idea proprio del distacco a volte che c'è del dibattito politico da quello che è l'umore dell'opinione pubblica. Si discute molto del finanziamento ai partiti? Non si discute di tagliare i fondi ai partiti, questo no, nella riforma che è già stata, tra l'altro si è già arenata, la riforma Alfano, Bersani e Casini, ma è spuntata questa cosa, udite udite, non di tagliare i rimborsi, anzi di rimborsare anche le primarie. Mariolina Sesto, a pagina 25 del Sole 24 Ore, è spuntata questa idea, un emendamento che preveda rimborsi anche per le primarie. Un'ipotesi difficile da digerire, ma intanto viene buttata lì. tanto che il Corriere titola rimborsi bocciati il testo dei leader e invece spuntano i finanziamenti per le primarie. Cioè non solo non si tagliano i fondi, i finanziamenti pubblici, ma qualcuno propone diamoli anche per le primarie. Vabbè, trovate sempre anche elementi di indagine. Berlusconi, Silvio, è indagato per il caso Tarantini. Avrebbe comprato il silenzio di Giampaolo Tarantini insieme alla Vitola per mentire sulle feste che si svolgevano nelle sue residenze. Dunque indagato. C'è il dossier della Lega con Belsito, l'ex tesoriere che spiava Maroni. È l'anticipazione oggi di Panorama, oggi in edicola su Panorama, un dossier con Belsito che dice, lo ha detto a Bossi anche, mi ha scoraggiato, in realtà non mi ha detto niente, tanto che Maroni ha preannunciato su Facebook una guerra termonucleare. Sentite cosa ha scritto Maroni su Facebook, con questo concludo, voglio andare fino in fondo e non importa se dovessi scoprire altre amare verità, cioè se dovessi scoprire di essere stato tradito da un amico, da un presunto amico, non ci saranno sconti per nessuno. Tanto che la stampa con Giovanni Cerruti dice amare verità, amico, presunto amico. Diciamolo, Maroni parla di Bossi ed è la resa dei conti attesa oggi. 24 mattino. Alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci qua allora, tasse, tasse, tasse, gli italiani pensano questo, l'IMU, ma tasse anche di altro tipo. Ieri è spuntata questa, il marchio sulle gru nei cantieri edili, tassa. Però c'è anche chi, posso dire, gongola per le tasse o per una tassa in particolare. Saluto il sindaco di Capri, Ciro Lembo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Dalla straordinaria Capri. È arrivata una tassa, arriverà. Di, sì. Quant'è? 1,50 euro? 1,50 euro è il tetto massimo che è stato fissato. 1,50 euro per attraccare... Persona in aggiunta del biglietto. A persona, per attraccare nei porti delle isole minori. Lei è contento, Noi stiamo facendo una battaglia da circa 10 anni, perché riteniamo che questa, almeno per quanto riguarda noi Capri e altri che stanno nelle stesse condizioni, è una tassa giusta rispetto alla tassa di soggiorno, che noi riteniamo che nei posti come Capri, dove arrivano 10-12 mila persone e non rimangono a Capri, ovviamente è più giusto che paghino questo un solo euro, che non chi va in albergo, che mette in moto il volano economico, perché chi sta in albergo ovviamente va al bar, al ristorante, allo stabilimento, insomma eccetera. Non l'abbassi già un euro, è 1,50 euro, un euro, ha detto pagare un euro, noi decideremo un euro. Perciò lei ha deciso, sì, 1,50 euro al massimo, a Capri un euro e basta. Sì, perché a noi la riduzione viene pareggiata dal numero dall'enorme numero di turisti che arriva. Certo, però sindaco, le tasse, anche voi, cioè, a gioire per le tasse, gli italiani appena sento la parola tasse vorrebbero mettersi le mani nei capelli in questi... Ma io penso che questa sia la più giusta, almeno per quanto ci riguarda, perché poi noi la tassa di soggiorno, che l'anno scorso pure potevamo applicarla perché già era vigente, non l'abbiamo applicato proprio perché speravamo che arrivava finalmente questa tassa di ingresso, di accesso. Cioè, dice, almeno per quel che vi riguarda è la tassa più giusta, quello che riguarda quelli che arrivano a Capri magari no, insomma dipende sempre da uno, da che prospettiva vede le cose. Però chi andava in albergo, noi avevamo fissato comunque in base alle stelle dell'albergo, 5 stelle si pagava 5 euro al giorno a persona, per cui voglio dire, si andava a gravare questo turismo stanziale che noi preferiamo rispetto al Monte Fuji. Non è che noi critichiamo, perché ci fa piacere ovviamente che i turisti arrivino a Capri, però rispetto alle spese che ci sono per sostenere e mantenere un afflusso di turisti di 10-12 mila persone al giorno in un posto piccolo come Capri, che vanno in tilt tutti i servizi, noi dobbiamo raddoppiare il servizio di pulizia, di attrezzo urbano. Sì, lei dice a Capri, è interessante il discorso, lei dice a Capri c'è molto mordi e fuggi, quindi la gente non dorme qui e non paga la tassa di soggiorno, almeno pagassero un euro a persona. Ma anche le altre, sì, anche Procida so che sono contenti, all'isola del Giglio. Ma io sentite che pure Ischia, ma ovviamente questa tassa, anche come la tassa di soggiorno, è facoltativa, cioè uno può può non applicare, può non applicare né l'uno né l'altro. E infatti voi l'applicate. La forbice, uno può applicare anche 50 centesimi. Questi perciò sto dicendo in tutte le lingue che praticamente questo è il reale e concreto, diciamo, la reale e concreta attuazione del federalismo fiscale, cioè lasciare l'autonomia ai sindaci in funzione delle esigenze delle varie realtà locali che sono sempre diverse. Cioè questo è il vero federalismo fiscale, viene da Ischia, Procida, sì. Capri, Giglio, questo... Eppure l'isola d'Elba, noi l'isola siamo 36 comuni delle isole minori che facciamo parte di 7 regioni. Per cui ognuno avrà la sua autonomia, magari di non applicare la tassa di sbarco, di ingresso, e applica quelle di soggiorno, fa quelle che vuole, può stabilire 50 centesimi. Avete già fatto un'ipotesi, sì, perché sapete quanti turisti sbarcano, che ipotesi di gettito vi entreranno nelle casse con un euro? Lo sappiamo già, anche se i dati non sono precisi, perché... come si sa sono falsati, più o meno. Perché c'è sempre la tendenza a dire di meno, perché ovviamente attraverso le compagnie di navigazione c'è il controllo preciso e puntuale, non c'è stato fino adesso, ma adesso ci sarà, perché noi siamo interessati, noi oscilliamo tra i 2 milioni e mezzo e 3 milioni di visitatori all'anno. E quindi 2 milioni, un euro a testa, 2 milioni e mezzo, 3 milioni di euro l'anno. Sì. E che ci fa con questi 2 milioni e mezzo all'anno? Noi spendiamo solo 5 milioni di euro all'anno per la nettezza urbana, per tenere Capri pulito. E vabbè, quello li spendevate già prima, quelli... questa spesa. E quindi noi la dovevamo far pagare ai cittadini. E certo. Ah, quindi... Ma i cittadini non sono colpevoli se a Capri arrivano 10.000 persone, per cui chi aveva la casa... di 50 metri quadrati c'erano sempre le stesse persone. Noi man mano abbiamo dovuto aumentare la tassa, perché noi con la raccolta differenziata a noi è inversamente proporzionale. Noi quando più raccolta differenziata facciamo più paghiamo, perché noi con il nostro servizio qua, per le nostre peculiarità dell'isola, noi dobbiamo passare 4 volte dal punto di raccolto, dobbiamo, invece di far partire 2 camion partono 6 camion, perché sì, dobbiamo partire separate. Insomma, sgravate un po' il peso delle tasse sui cittadini, quindi abbasserà le tasse comunali. Sicuramente, già l'avevamo fatto con la tassa, credo comunque avevamo applicato già la tassa di soggiorno, però non abbiamo approvato ancora il bilancio, adesso elimineremo la tassa di soggiorno e applichiamo quella di sbarco. Insomma, possiamo dire da Capri che se tutti gli italiani guardano il governo Monti, come dire, ma insomma un'altra tassa anche oggi, compasso, tutti a guardare con scetticismo, voi invece lei dice viva il governo delle tasse di Monti, possiamo dire. Ma guardate, noi l'abbiamo chiesto a tutti i governi, che precedente nessuno ce l'ha concesso, i tecnici, il governo tecnico, finalmente tra le tante tasse, penso che questa sia la più giusta. Lunga vita al governo tecnico, dunque, da Capri per queste cose. E purtroppo gli altri precedentemente, pur avendo il consenso popolare, non l'hanno fatto. Vuol dire che adesso siamo stati finalmente ascoltati. Noi abbiamo avuto vari incontri con il sottosegretario De Vincenzi del Ministero dello Sviluppo Economico, scritto a Monti, scritto a tutti i ministri. Io sto combattendo da vari anni. E qua a Monti, appena vede la possibilità di fare un po' di cassa, l'ha fatta, quindi... Vabbè, ma li riduce, ma questo è proprio, perciò dico, siccome loro hanno dato queste tasse, cioè rispetto alla tassa della casa, cioè noi invece dobbiamo tassare le cose giuste, in effetti, e poi far pagare a chi già di più, per cui... voglio dire, noi anche noi, perché come... Ma la giustizia comunale, di questa tassa qual è? Che uno viene a Capri, sporca e quindi deve pagare un euro? Questa è la giustizia, la razza. Sporca, che sembra un poco... Però noi ci aggravano i servizi. Noi abbiamo 18 vigili fissi e 6 stagionali, 52 persone operai di nettezza urbana, che nemmeno una città di 3 milioni di abitanti ce l'ha, capito? Perché con la peculiarità dell'isola non è che abbiamo un camion come in città che gira per tutte le strade e fa la raccolta. Noi abbiamo dei carrellini elettrici di un metro largo, perché abbiamo le stradine da un metro, cose eccetera, cioè noi abbiamo un servizio particolarissimo. Vabbè, comunque sindaco, grazie, con questi 2 milioni e mezzo, 3 milioni vedrete di sistemare un po' le cose. Grazie per essere stato a Capri, poi venite a vedere come veniamo. I servizi di eccellenza che Capri offre. Qua siamo in 5 o 6 redazione, no, della trasmissione, paghiamo tutto il nostro euro e veniamo. Non si preoccupi. Grazie al sindaco di Capri, Ciro Lembo, per essere stato con noi. Arriva dunque la tassa per lo sbarco sulle isole minori. Sono 36, quanto ha detto? 36 più o meno. Va bene, parleremo della ricchezza dei partiti. Il premier Mario Monti ha detto: non pensino i partiti e non pensi il sistema politico che i mercati internazionali, quando guardano l'Italia, non guardino anche, non sperino in una riforma del sistema politico stesso, del sistema dei partiti, del finanziamento ai partiti. È il caso di tagliare anche lì, che dite? 24 mattino. Alle 8.35 minuti, ieri il premier Mario Monti, nel parlare anche di crescita e nel dire che prima del 2013 la crescita non ci sarà, ha lanciato secondo me un messaggio forte anche alla politica, al sistema politica, ai partiti, dicendo: cari partiti e caro sistema della politica, non pensate che i mercati, quando guardano l'Italia, non si aspettino anche da parte della politica una riforma ampia, una riforma elettorale, una riforma per esempio sul sistema del finanziamento pubblico ai partiti o rimborsi pubblici ai partiti. Guardano anche a questo, non che queste cose siano slegate dalla possibilità di una crescita, di una ripresa economica del nostro paese. Della ricchezza dei partiti e del tema tanto dibattuto in questi giorni dei rimborsi elettorali o, se volete, del finanziamento pubblico ai partiti stessi, legato anche a tutto quello che sta succedendo, che si legge sui giornali, inchieste, oro, diamanti, lenoni, faccendieri, affaristi. Ne vogliamo discutere con Giuliano Ferrara, direttore del Foglio. Buongiorno e bentornato, Ferrara. Saluto anche Gerardo Colombo, ex magistrato, oggi presidente dei Garzanti Libri, un uomo che gira per parlare di legalità nelle scuole. Anche l'ultima volta l'abbiamo trovata che andava in una scuola, credo anche oggi, dottor Colombo. Anche questa mattina, buongiorno. Allora, Giuliano Ferrara, lei è noto anche per dire delle cose, se si vuole, controcorrente. La corrente adesso dell'opinione pubblica dice: basta soldi ai partiti, sono troppi, è uno scempio, inchieste, oro, diamanti, lingotti, affari, affaristi, faccendieri. Lei invece ieri credo che abbia detto: ma sono cosucce, anzi ce ne vorrebbero di più di soldi ai partiti, è così? Ma io ho fatto un'intervista paradossale a quelli del Fatto Quotidiano, che sono i colleghi del Fatto Quotidiano, che fanno dei finanziamenti ai partiti, degli scandali finanziari, degli scandali politici, eccetera. Il metro è la misura di tutta la loro identità. Allora, per provocarli, gli ho detto: sono pochi, ce ne vogliono di più. Ma questa era una pura provocazione. È evidente che sono troppi, che bisogna... Io faccio una polemica da anni per il fundraising, cioè secondo me i partiti devono avere finanziamenti privati e devono essere cartelli elettorali che nella ricerca, della partecipazione anche finanziaria degli elettori, realizzano sostanzialmente la loro identità. Io credo in un paese governato dagli eletti, dai parlamentari, dai sindaci, dai governatori, dai ministri. Proprio i partiti non li vedo proprio. Mi piaceva molto l'idea di Veltroni di fare un partito all'americana all'inizio, poi l'ha tradita, l'ha cambiata, è tornato ad essere un uomo di partito come tutti gli altri. Cioè, a me, e naturalmente mi piaceva e avevo investito molto anche sull'avventura di Berlusconi con la prima Forza Italia, insomma, l'idea di una cosa che era tutto tranne che un partito, era appunto un movimento elettorale costruito in pochi mesi su un'ipotesi politica e su una visione, insomma, mi sembrava una cosa giusta, soprattutto nell'Italia di allora, con il tipo di divisioni che c'erano. Quindi io, figuriamoci se sono per i finanziamenti pubblici e i partiti da questo punto di vista. Osservo però che distruggere i partiti, perché questo è quello che attualmente una campagna molto, molto estesa sta cercando di fare, non è nel nostro interesse oggi. Non è nel nostro interesse. Poi vince Beppe Grillo. A proposito di finanziamenti privati, sai cosa ha detto qui Rosi Bindi ieri a questi microfoni? Ha detto: invece no, i privati poi chiedono il conto ai partiti. Vorrei sapere per esempio quanti e quali petrolieri hanno finanziato Bush creando poi la guerra in Iraq. Questa è una cosa primitiva dal punto di vista politico, che non ha nessun senso. Cioè, oggi c'è un ampio finanziamento pubblico ai partiti, eppure i traffici privati non mancano, mi pare. Ah no, mi pare di no. I lobby, eccetera. L'interazione tra i poteri privati che vogliono farsi largo e ottenere qualcosa dallo Stato e la politica c'è sempre stata e ci sarà sempre. Il problema è che non si aumentino tutte le intermediazioni pubbliche che consentono di trasformare questa pressione lobbistica in corruzione. Questo è il problema. Io vorrei chiedere, dottor Colombo, lei che la osserva, prima l'ha osservata durante Tangentopoli, ovviamente dal di dentro, se si vuole, la politica, studiandola e anche indagandola, ovviamente. Ora la osserva, immagino, da privato cittadino, da ex magistrato. Nota anche lei che c'è una campagna per distruggere i partiti, oppure i partiti si stanno anche lentamente autocorrodendo, autodistruggendo anche con comportamenti di alcuna parte della classe politica non proprio cristallini, diciamo così. Io credo che i partiti si stiano anche autocorrodendo, secondo me questo è, cioè io noto una certa difficoltà, una certa poca capacità di rispondere da parte dei partiti a quel che oggettivamente si vede in questi giorni, in questo periodo, però non sono soltanto cose di adesso. Nello stesso tempo però io noto questa tendenza che è tipica nostra, ma forse non soltanto nostra, ma comunque è senz'altro nostra, di trovare una specie di capro espiatorio, comunque di trovare il sistema per valutare se stessi sempre innocenti, dando la responsabilità di tutto quel che di negativo succede nella nostra società a qualcun altro. Nota un senso di impunità all'interno del sistema politico? No, io stavo parlando dei cittadini. Ah, dei cittadini? Sì, in generale. Sì, io stavo parlando dei cittadini in generale, i quali, secondo me, in questo paese ancora, noi non abbiamo capito bene che cosa vuol dire democrazia. A me sembra evidente, io credo che ci potremmo accorgere tutti del fatto che bene o male, cioè direttamente o indirettamente, pur con questa legge elettorale che non consente di scegliere la persona, però consente senz'altro di scegliere la forza, no? il riferimento. In una democrazia i rappresentanti sono eletti dai rappresentati, no? E qui sono anni e anni e anni che le persone che fanno politica si conoscono, no? Sono conosciute da chi vota. Allora poi a un certo momento scoprire quel che da almeno 20 anni si sa, indignarsi per questo, forse bisognerebbe anche cercare di farsi un auto. Cioè, insomma, anche noi cittadini non possiamo tirarci fuori dal puntare semplicemente il dito e dire: ma dove eravamo in questi 20 anni, 30 anni? Non ci siamo accorti di tutto quello che stava succedendo? Esattamente. Un senso di autocritica. E io credo che anche sotto profilo del finanziamento ai partiti, secondo me una base da parte del pubblico, io credo che sarebbe comunque necessaria, sì. Molto meno di quello che è ora. Ecco, ma cosa ne pensa quando i segretari di partiti di maggioranza, Alfano, Bersani e Casini, dicono quella che è apparsa per molti una grande barzelletta? O vengono pagati dal pubblico i partiti, o se no le lobby si mangiano i partiti, gli affaristi si mangiano i partiti, come se adesso invece fossero lontanissimi dal mondo dei partiti. No, ma infatti io condivido quello che diceva prima Giuliano Ferrara, che il problema continua a esserci, perché questo è un problema di cultura, è un problema di educazione, è un problema del modo di intendere la relazione tra il rappresentante e la collettività e la sua attività, no? Tra il politico e la sua attività. Però nello stesso tempo io mi chiedo, ma non è che il fatto che la democrazia richieda una partecipazione attiva da parte dei cittadini, non soltanto quando si va a votare per le elezioni o per il referendum, ma una partecipazione attiva alla vita sociale, non è che richieda anche un impegno sotto il profilo della partecipazione anche quanto alla predisposizione dei mezzi per fare politica? Una volta i partiti si rivolgevano ai loro iscritti, si rivolgevano ai cittadini per avere i mezzi attraverso i quali fare politica, no? Sì. Adesso invece sembra che sia tutto dovuto da parte dello Stato. Ma infatti c'è uno scollamento totale. Da questo punto di vista introduco il nome e cognome che farà arrabbiare Giuliano Ferrara, ma così, Beppe Grillo, ecco. Non vede almeno in Grillo Ferrara un contatto col popolo, col suo elettorato, con la base del movimento, chiede i finanziamenti diretti, sta girando per l'Italia, fa 100 comizi, 5 al giorno, quel senso di un contatto, di quello che la politica un po' ha perso, non fa più. Ferrara. Secondo me Grillo è un bravo attore comico, annoiato, fuori ruolo, e che della sua vita intende fare una cosa interessante per lui stesso. Bisogna capire se è interessante anche per noi il suo progetto. Voglio dire, i comizi sono, sì, fare molti comizi è una cosa encomiabile, io ne ho fatti tantissimi nella mia vita, ho fatto pure una campagna elettorale solitaria, autofinanziata contro l'aborto, di perfetto insuccesso. Invece Grillo è destinato senz'altro a un grande successo, ma cosa dice nei suoi comizi? Beh, io ho visto due clip recentissimi a Cesano Maderno. In cui lui ha detto ai leghisti che sono bravi, che Bossi era bravo, che loro sono bravi, che loro sono meravigliosi, che loro sono stupendi per intercettare i loro voti, e che diciamo non si è messo in una posizione di critica del modo in cui la Lega è stata guidata e diretta, ha detto vi siete fatti risucchiare dal sistema ma siete tanto bravi, insomma ha lisciato il pelo ai leghisti, e poi ha fatto altri discorsi di pura e semplice demagogia, per esempio ha detto ai commercianti vengono a verificare se voi date lo scontrino perché vogliono, c'è sempre questo impersonale potere contro il quale Grillo si scaglia, vogliono dimostrare che voi siete evasori fiscali e che voi siete il problema dell'Italia, invece il problema sono loro. Sa, sono delle bozze di demagogia da urlo, voglio dire. Con discorsi di questo genere non è poi difficile prendere un 10% in un'elezione amministrativa di Bologna, prendere un 5-7%. Cioè grazie alla demagogia. Grazie. Sì, però poi alla fine io mi pongo questo problema. Però Beppe Grillo dice noi parliamo anche dell'acqua, del welfare, del lavoro, delle cose vicine alla gente, parla anche di questo, nei suoi meet-up ci si confronta su queste idee. Ho capito, parla, ma voglio dire, insomma, chi è che poi ci dà la minestra? Cioè come si, scusate la volgarità, la trivialità di questa osservazione, ma mi viene spontanea, insomma chi è che affiderebbe a Beppe Grillo la terza economia d'Europa? Chi è che affiderebbe a un programma nato diciamo dai malumori o dai buonumori di un comico un grande paese? Nessuno, quindi insomma Grillo sta correndo una sua avventura personale, la si può giudicare interessante, meno interessante, che non ha nessun riferimento con la prospettiva di un paese che deve essere governato e cui i problemi vanno risolti. Non so, non vedo molto Grillo che afferra il problema dello spread. L'agenda economica del paese. Allora, io non so se Gerardo Colombo se si vuole esercitare, non tanto su Grillo, il fenomeno Grillo, però vorrei chiederle se, insomma, in fondo anche dopo Tangentopoli ci fu il periodo di più bassa o delegittimazione o credibilità del sistema politico da parte dei cittadini, che arrivò appunto, si dice lì finì la Prima Repubblica. Lei vede nella spinta popolare che sta sostenendo Beppe Grillo, accreditato come terza forza del paese, un qualcosa di simile oppure sono paragoni impropri? Ma io devo dire che io vedo in questo paese una tendenza forte a trovare qualcuno che faccia per noi, no? E francamente adesso non lo so se la stessa cosa succeda a proposito di Grillo, però in ogni caso è difficile che noi oggi ci coaguliamo intorno a un'idea, mentre è estremamente facile che ci coaguliamo intorno a una persona. E secondo me questo, molto francamente lo dico, non c'entra molto con la democrazia. Beh, insomma, è una. Adesso al di là di Grillo o non Grillo è forte come frase, cioè questa è interessante. Dice, ci sono. Ferrara, è d'accordo sul fatto che mancano le idee, mancano nei partiti? Sì, sì. Guardi, io sono molto colpito da una notizia fresca del mattino. Sì. La Camusso, il capo della CGIL, che dice che la Fornero non deve andare in un'assemblea di fabbrica dove è stata invitata. La trova una provocazione, la trova un qualcosa di... com'è che la definisce? Che è una cosa arrogante. Cioè, allora, ma che vogliamo parlare di democrazia quando il capo del maggiore sindacato, invece di sollecitare, come hanno giustamente fatto alla Lenia e alla Fiom, il ministro del lavoro a spiegare la sua riforma ai lavoratori, e dice che non lo deve fare. Non lo so, che cos'è? Una cosa... è pazzesco, cioè... Io non so, passo per essere un conservatore, ma in realtà in queste cose sono un liberal, anche metodologicamente, cioè il dialogo, la spiegazione, il rapporto tra governanti e governati, il diritto dei lavoratori di sapere, di abbeverarsi a una fonte diretta, un'assemblea politica, se ne sono fatte tante nella storia della nostra democrazia, ma come si fa? Insomma, stiamo diventando di nuovo un paese di veti incrociati, di interdetti, mi sembra una cosa proprio politicamente e civilmente profondamente sbagliata. Io poi vorrei, e approfitterei anche della presenza del dottor Colombo, che è una persona che su questi temi è molto autorevole, dire una cosa. Insomma, le cose cambiano, il tempo passa, Berlusconi non è più presidente del Consiglio, c'è la natura dei problemi politici italiani è profondamente diversa dal passato. Ora, Colombo è famoso per una intervista che diede contro la bicamerale D'Alema Berlusconi, dicendo: sì, ma qui c'è roba lobbistica di nuovo, un po' pituistica, vogliono fare una riforma cattiva della giustizia. Aveva diritto di dire la sua opinione, naturalmente. La mia impressione è che noi non ci tireremo fuori dai pasticci, e sono pasticci gravi che interessano la vita quotidiana degli italiani, se non avviamo, detta brutalmente, un processo di unità nazionale, consistente, serio. Cioè, non ci sono oggi un governo di sinistra con Di Pietro, Vendola e Bersani, o un governo di destra che vincesse le elezioni nel 2013 con Alfano e presumibilmente senza Casini e senza la Lega, che ha la posizione che ha, non potrebbero fare assolutamente nulla. Nulla. Ci vuole nulla. Quella coesione nazionale che lei anche sul Foglio oggi richiama. Serve un progetto all'altezza della situazione. Abbiamo fatto una scelta, io ero contrario, io volevo votare, però tutti hanno detto: bene, facciamolo. Napolitano ha ragione, lo spread è a 5,70, andiamo verso la recessione, i conti pubblici sono fuori controllo, le riforme strutturali le rinviamo da 20 anni. Sì. Abbiamo un sistema che non funziona. Bene, abbiamo dato un incarico a una persona molto degna come questo Monti. Personalmente, che fosse degno Monti lo dicevo anche quando ero contrario alla soluzione che poi è stata presa. Sono stato a guardare, sono una persona normale, un realista. Bene, mi pare che insomma in qualche modo sta facendo quello che doveva fare, che era dentro la sua missione, con una legittimazione che viene solo dall'alto oggi, sì, e che è confermata in modo spesso iroso e conflittuale dal Parlamento. Si deve rifare un nuovo Parlamento, bene, rifacciamo sta legge elettorale, facciamo queste riforme istituzionali e andiamo alle elezioni dicendo agli italiani: ci sono problemi seri da affrontare, ci servono ancora 2-3 anni almeno della prossima legislatura, con un potere super legittimato da una grande coalizione di interesse nazionale. Ma su questo è chiaro, io mi spiace, non ho tempo per far replicare su questo a Gerardo Colombo, ci sarà tempo magari in un'altra occasione, lo richiameremo. Ringrazio sia Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, che Gerardo Colombo, presidente di Gardanti Libri, ex magistrato, per essere stati con noi. Ci trovate anche su Twitter @AlinoMilan, quello sono io, e ci troviamo domattina.